Gli Irrinunciabili presenta per RadioBigWord.com I Goonies, un film di Richard Donner. Non voglio usare mezzi termini, I Goonies è un tuffo al cuore. È come incontrare la nostra fidanzatina della scuola, che però non è invecchiata, mentre noi qualche anno in più lo abbiamo. Ma fa niente. Perché ogni volta che lo vediamo ci pensa lui a portarci indietro, nel tempo, quando eravamo bambini, ragazzi più spensierati, senza i problemi degli adulti che ci affliggono oggi. Ma come si fa a creare qualcosa del genere? Servono come minimo tre menti geniali. Spielberg scrive il soggetto, e lui con i ragazzini ci sa fare, riesce a trasmettere quel senso di stupore e meraviglia che è tipico di quell'età. Columbus scrive la sceneggiatura, ed è giusto uno che ha scritto il soggetto dei Gremlins. Richard Donner dirige il film. Lui è un visionario di professione. Ha portato sullo schermo Superman e Lady Hawk. Cosa dite? Vi basta? Io direi di sì. Era praticamente impossibile fallire. E loro non solo hanno fatto centro, che era il minimo sindacale dato le loro credenziali, ma sono entrati nella storia. I Goonies è un vero mix di vari generi. La commedia è una costante, ma con un pizzico di melanconia verso la fine, come se quell'avventura li avesse fatti crescere in un qualche modo. Abbiamo le trappole all'Indiana Jones, scherzi che sembrano usciti da una confraternita goliardica, un pizzico di horror, è un frullato incredibile ed è anche per questo che non annoia mai. Il ritmo è incazzante, nella prima parte del film i Goonies sparano anche l'uno sopra l'altro, tante l'eccitazione e l'esuberanza tipica di quell'età. Poi quasi non abbiamo un momento di pausa, ogni minuto succede qualcosa, c'è della tensione, una risata, uno shock, a ben pensare neanche in certi film d'azione abbiamo un ritmo del genere. Siamo affezionati a quei ragazzini, abbiamo voluto far parte della loro compagnia, perché sono in gamba e dei casinisti pazzeschi, sono contrapposti totalmente al serioso mondo degli adulti, che non riesce a risolvere i loro problemi, i loro genitori non hanno i soldi per pagare l'affitto delle loro case, lo sfratto è imminente. Allora cosa fare? Semplice. Si trova per caso una mappa appartenuta ad un vecchio pirata, Willy Lorbo, e ci si imbarca in una pazzesca caccia al tesoro. Il tutto condito con mafiosi imbranati, un mostruoso gigante dal cuore d'oro, tre cobetti mortali, sì, tre cobetti, avete capito bene, cadaveri, scheletri e scherzi assurdi nei momenti più improbabili. È un film per ragazzi. Ma mi riferisco a quei ragazzi che non vogliono crescere mai, come il sottoscritto. E come anche voi, ci scommetto. I protagonisti sono innocenti e il loro stupore che vediamo dipinto sui loro volti è genuino. Non sono filtrati con gli occhi di un adulto. Un po' di malizia è presente solo in Muff, il più sfacciato della combricola. Sempre con la battuta pronta, parla spagnolo e si diverte a terrorizzare la donna delle pulizie, con storie assurde di sesso e droga. Il mio preferito però è Chunk, grassottello e sempre affamato, spara balle pazzesche, come quando Michael Jackson gli ha citofonato a casa perché aveva bisogno urgentemente del bagno. Una delle mie scene preferite ha lui come protagonista, è quando viene catturato dalla banda fratelli. Lo obbligano a confessare dove sono i suoi amici, sotto la minaccia di mettergli la mano nel frullatore. Deve confessare tutto, tutto, tutto. Allora comincia ad elencare tutte le malefatte e gli scherzi assurdi che ha fatto durante la sua breve ma intensa vita. Come quando, dalla galleria del cinema, ha gettato finto vomito sulle persone, facendo così vomitare tutti contro tutti. È fantastico quel ragazzino, io lo adoro. Saremmo stati amici per la pelle. Insieme a loro c'è la banda fratelli, cattivissimi ma imbranati. Vogliono il tesoro tutto per loro e sono in competizione con i Goonies. A parer mio spicca molto la figura della madre, burbera e tatuata. Tengono segregato il povero Sloth, gigante deforme con la mente di un bambino, al cuore d'oro, e legherà tantissimo con Chunk. Infatti, loro due sono praticamente due sfigati, ma per motivi completamente differenti. Ed il loro rapporto è molto bello e tenero, perché ancora una volta si vede la differenza tra il mondo adulto e quello dei ragazzini, che non giudicano per l'aspetto fisico. Ritengo che Sloth sia una figura molto interessante nel contesto in cui è immersa, perché è un mostro deforme tenuto incatenato in uno scantinato, vittima della violenza della sua famiglia. Normalmente sarebbe un cattivo, qua invece no, e di fatto diventa un membro aggiuntivo dei Goonies, che confermano ancora il loro essere outsider a tutti i costi e contro lo status quo delle cose. I nostri film preferiti però non sono solo un'esperienza visiva, ci sono anche altri fattori in gioco, ed è impossibile non collegare il film al tema musicale principale, ovvero quella Goonies Are Good Enough di Cyndi Lauper, e così abbiamo gli anni 80 all'ennesima potenza. I Goonies fa parte di noi, e se non lo rivedete da tanto tempo vi invito a farlo, magari in compagnia dei vostri amici e con tanto cibo spazzatura. Buona visione!